È una portata molto importante, ampia, perché se da un punto di vista simbolico in realtà non vale granché, perché si è parlato di accordi di pace, ma in realtà gli Emirati, il Bahrain, così come anche altri paesi arabi, soprattutto le monarchie del Golfo, in realtà non sono mai state in guerra, non hanno mai direttamente combattuto delle guerre contro Israele. Più semplicemente hanno fatto parte di uno schieramento che fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, portava avanti una posizione ribadita in particolare nel 2002 dall'iniziativa araba preparata dai sauditi, dove Israele avrebbe ottenuto accordi di pace, la normalizzazione, solo dopo aver messo fine all'occupazione militare dei territori occupati palestinesi e quindi con la nascita dello Stato di Palestina. Quindi non possiamo parlare di veri e propri accordi di pace, quello fa parte più diciamo della retorica con cui Trump e soprattutto Netanyahu e naturalmente i due paesi arabi hanno accompagnato queste intese. Invece da un punto di vista sostanziale ci sono due cose. La prima è che, come dicevamo prima, ovviamente la questione palestinese per questi paesi e per gli altri che probabilmente si aggiungeranno in futuro alla lista che ora è composta da Emirati e Bahrain, la questione palestinese diventa assolutamente marginale. Al di là delle dichiarazioni, in realtà non è più un ostacolo per l'avvicinamento non solo tra Israele e questi paesi, ma in realtà per ciò che riguarda la realizzazione di tutta un'altra serie di accordi che poi verranno. D'altra parte anche queste intese che noi abbiamo sentito in queste settimane in realtà ne conosciamo solo in parte, probabilmente ci sono degli aspetti segreti nel campo della sicurezza militare, dell'intelligence che non conosciamo, forse non conosceremo mai, oppure ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'altro aspetto importante è che naturalmente da un punto di vista strategico è chiaro che c'è un riconoscimento da parte di questi paesi arabi della superiorità militare, economica, tecnologica di Israele, si fa un'alleanza con rapporti molto stretti, ma è chiaro che Israele diventa anche la piccola superpotenza, la superpotenza regionale che garantisce anche protezione e difende i suoi nuovi alleati, e questo ha anche un riflesso rispetto a quello che potrebbe essere l'atteggiamento americano in futuro. Quindi c'è un altro paese che direttamente è chiamato a tutelare gli interessi di queste ed altre monarchie arabe, altri paesi arabi, ma naturalmente c'è anche la questione che Israele potrebbe ricevere una sorta di incarico di fatto anche dagli Stati Uniti per proteggere questi paesi, naturalmente da chi? Dall'Iran, che è il nemico comune. Ecco, naturalmente adesso si attende di capire quali saranno le decisioni dell'Arabia Saudita, che Trump ha nominato ieri più di un'occasione dicendo che presto ci sarà anche Riyadh tra questi paesi che hanno riconosciuto Israele. Forse non è così presto come lascia intendere il presidente americano, che vorrebbe un accordo prima delle presidenziali americane di inizio novembre. Probabilmente non ci sarà, ma vedremo. Davvero è una situazione abbastanza fluida. Per ora si parla della possibilità che l'Oman, il Sudan e forse anche il Marocco potrebbero appunto stringere rapporti di normalizzazione con Israele. Torno un attimo sulla Palestina, perché qualcuno aveva sostenuto che insomma questo accordo serviva anche a scongiurare l'annessione unilaterale di Israele di territori palestinesi. In realtà questo è stato un pretesto? Beh, cosa avrebbero potuto dire gli Emirati, il Bahrain rispetto alla loro scelta per giustificarlo agli occhi dei palestinesi? Che è una scelta fatta per smuovere la situazione e creare le condizioni per andare alla realizzazione dello Stato di Palestina, eccetera. Ma se noi guardiamo la realtà sul terreno, lasciando perdere anche l'annessione formale a Israele della Cisgiordania che si sarebbe fermata, è chiaro che è difficile immaginare che questi paesi possano in qualche modo sospendere, raffreddare le relazioni con Israele nel caso in cui non desse il via libera alla creazione di un vero Stato di Palestina, uno Stato di Palestina sovrano, indipendente, che ha il controllo delle sue frontiere, del suo spazio aereo, quindi un vero Stato. Questa cosa al momento e per la verità nel futuro anche a breve termine non ci pare realizzabile, per cui è difficile immaginare che Abu Dhabi e Manama adesso ritornino su certi passi fatti per sostenere i diritti dei palestinesi, e quindi la situazione è particolarmente difficile ed è per questo che i palestinesi se ne rendono perfettamente conto e sanno che questo meccanismo che si è innescato ha un effetto domino, coinvolgerà anche altri paesi. Non sappiamo se nelle prossime settimane settimane, casomai nei prossimi mesi o nei prossimi anni, ma loro comunque stanno perdendo l'appoggio di un fronte comune arabo che credevano di aver compattato nei mesi scorsi dietro il rifiuto dell'annessione della Cisgiordania o di porzione della Cisgiordania allo Stato di Israele. Quindi cresce l'isolamento e ai palestinesi sostanzialmente viene offerto quello che dice Trump con il piano accordo del secolo, cioè c'è questo staterello senza sovranità in porzioni di Cisgiordania con Gaza isolata completamente, prendere o lasciare.